ultime tappe della carovana antimafia che è arrivata in Sicilia dopo aver attraversato tutte le regioni italiane, comprese un breve passaggio anche in Francia e in Corsica. La carovana era partita il 25 settembre da Milano e è arrivata in questi giorni nel Trapanese, dove venerdì 17 si è svolta anche un'importante cerimonia ad Alcamo per la consegna di un bene confiscato alla mafia. La carovana si concluderà il 19 ad Agrigento e noi siamo in collegamento con Alfio Foti, il presidente dell'Arci Sicilia, al quale chiediamo un bilancio di questa esperienza e in particolare di questi ultimi giorni in Sicilia. Il bilancio degli ultimi giorni, delle ultime tappe della carovana in Sicilia è buono, direi più che buono. Come del resto, in alcuni casi anche in maniera sorprendente, è stato buono il bilancio per le regioni non siciliane. Come si sa, la carovana è partita il 20 settembre da Milano, ha toccato tutte le regioni d'Italia, mi pare 160-170 comuni, e dappertutto abbiamo trovato questa accoglienza, questa partecipazione che, ripeto, in qualche caso è stata anche sorprendente. A proposito della partecipazione della gente, quali sono state le riflessioni, le domande che a livello di dibattito, di incontri, le persone hanno sollevato? Guarda, io penso che c'è una costante in 3 mesi di carovana che unifica il nord e il sud, e questo è un dato positivo, di speranza, ma anche impegnativo per chi poi dovrà dare, ovviamente, garantire continuità a tutto questo lavoro. La domanda è questa: emerge sempre di più, meglio, questa necessità, questo bisogno di rimettere al centro la legalità democratica di fronte a questa illegalità che si diffonde sempre di più e che diventa quasi legale, in qualche caso addirittura con delle leggi che la rendono tale sostanzialmente. E quando si parla di legalità democratica non si parla di un legalismo, come dire, becero e spesso vuoto se non dannoso, si parla di un patto di convivenza civile che dovrebbe garantire le fasce deboli della popolazione rispetto ai poteri forti, che dovrebbe garantire anche il principio di uguaglianza e di giustizia sociale. Emerge questo, c'è quasi questa necessità di esprimere fortemente questo bisogno. L'abbiamo visto a Trento, l'abbiamo visto in Calabria, l'abbiamo visto in Sicilia. Dopo questa esperienza delle carovane, quali saranno le iniziative che seguiranno? Come pensate, certo, di lavorare dopo questa esperienza? Il seguito viene dato da tutta l'attività che fa Libera, dall'attività che fa l'Arci e le altre associazioni di promozione sociale che sono impegnate in questo campo. Dai beni confiscati, all'educazione alla legalità, al doping, al commercio di armi, eccetera, eccetera. In particolare in Sicilia stiamo lavorando in una direzione, questi patti territoriali per la legalità democratica e la promozione della qualità sociale, che sono frutto del lavoro di 2 anni in 4 comuni che sono Vittoria, Canicattì, Gela e Paternò in provincia di Catania. 2 anni di lavoro in cui i soggetti diversi, dall'ente locale ai servizi, alla scuola, il terzo settore, il volontariato, l'unità sanitaria locale, tutti insieme a individuare da un lato i bisogni, quindi in termini anche di analisi di questi bisogni, e dall'altro le possibili risposte che insieme si possono dare, dalla bonifica sociale fino a progetti di sviluppo partecipato. È una strada che abbiamo intrapreso, che vogliamo diffondere. Speriamo che queste buone prassi diventino politiche in tutta la regione per produrre un cambiamento reale.